Guardo dalla finestra. Sta svoltando l'angolo un gruppo con cane. Li conosco. Padre, madre e figlia con un cagnino giovane, imberbe cucciolotto. Lo lasciano libero e lui corricchia un po' per suo conto, poi torna sui suoi passi e si lancia addosso all'uno o all'altro dei suoi padroni. C'è un turno per ciascuno. Gli arriva con le zampe fino al ginocchio, gli saltella a fianco, si divide fra l'uno e l'altro, ricorricchia di qua e di là senza mai allontanarsi un granché, perché i passettini di autonomia nel territorio ancora poco suo, diciamo che sono pochi, e torna subito all'arrembaggio festoso dei padroni. Papere, la mattina, quando si sveglia, si stira in lungo e in largo, è pigrona e se può si alza dopo i padroni. Ma quando finalmente a malincuore è in piedi, mi si para davanti e si struscia contro le gambe. Se mi siedo mi guarda un attimo e subito prova a salirmi addosso. Mi tasta il polso del sentimento e se Anna dice bacio, lei mi salta su più che può e mi lecca. Fa la quotidiana verifica del legame sociale che ci unisce. I licaoni sono animali noti per l'attitudine alla cooperazione reciproca. Cacciano le loro prede suddividendosi i compiti, no? Uno va a destra, l'altro a sinistra, un paio stanno di dietro, gli altri aspettano di balzare sulla preda nel punto in cui i compagni l'hanno hanno finito per indirizzarla. Sembra che prima di partire per la caccia i licaoni facciano una specie di mucchio, rinnovando il contatto fisico tra loro quasi a garanzia della loro coesione per constatare lo stato dei loro rapporti. Anche le manguste nane africane sembra che facciano qualcosa del genere, e presumibilmente molti altri animali. Nel principio dell'handicap, un libro uscito recentemente da Einaudi, i coniugi Zahavi, due etologi israeliani, raccontano delle loro lunghe osservazioni sulla comunità dei garruli, che prima che persone alle grotte e vispe sono uccelli passeri formi, non più grandi di un merlo, poco meno di un etto, insomma, in tutto. Fra le tante cose osservate, i due acuti etologi sono rimasti impressionati da un'attività particolarissima di questi uccelli. Un'attività saltuaria ma rigorosamente mattutina. Uno di loro all'improvviso si ferma di botto, passeggia nervosamente, si liscia un po' le penne e poi si rovescia per terra. Se fra i membri della sua comunità non succede nulla, il garrulo si rialza alla svelta, cerca di darsi un contegno, si rimette in cerca di cibo come se nulla fosse. Ma a volte capita che il suo gesto sia immediatamente seguito dall'arrivo di un altro garrulo che gli si affianca e si dedica anche lui ai lisciamenti di penne, diciamo. Arrivati a due di solito il più è fatto. Tutti gli altri ne vengono contagiati e inizia la danza collettiva. Fanno mucchio, si premono l'un l'altro, girano in tondo in una sorta di frenesia di contatto collettivo. Fanno notare i coniugi Zahavi che anche il momento scelto è particolare, perché a quell'ora è massima la probabilità di incappare in raid di rapaci, mentre è anche massima la probabilità di trovare cibo. E dunque questa partecipazione al rito coreografico non è priva di rischi e può costare parecchio ai garuli. Tuttavia più forte è per loro l'esigenza di confermare la propria disponibilità al legame sociale. Qualcosa del genere sopravvive anche fra gli esseri umani. Ce ne accorgiamo allorché torniamo a casa, i bambini ancora piccoli ci si fanno incontro cercando un immediato contatto, no? Oppure anche quando vediamo un gruppo di ragazzi, la ragazza che si stringe più vistosamente al proprio ragazzo quando lui sta parlando con un'altra. Sono forme di comunicazione implicita praticate per quei brevi periodi della vita in cui, a dire il vero, proprio un membro attivo a tutti gli effetti della società, non lo si è ancora, perché in altri casi la funzione sopravvive stilizzata e direi svilita fino al patetismo. Si pensi al capannello di atleti di certi sport collettivi, no? Come il calcio, il basket, la pallavolo. Prima dell'inizio della partita, dove una sorta di abbraccio generale, a volte la ripetizione di qualche parola d'ordine, dovrebbero promettere una coesione, un'unità di intenti da verificarsi poi in partita. Ma se si pensa che questo rituale è saggiamente programmato a tavolino da un allenatore che crede di saperla lunga sulle tecniche di conduzione di una squadra, si comprende subito allora che questa pratica risponde più all'esigenza di simbolizzare la funzione che di svolgere la funzione per davvero. Un legame sociale è verificato grazie al coraggio di qualcuno che spontaneamente può rimetterci del suo, la vita come la faccia, e non per imposizione o per gratuita convenienza di una comunità eterodiretta. All'adulto odierno, insomma, l'occasione di verificare lo stato del legame con gli altri membri della comunità a cui appartiene non è più data. Un tempo forse servivano allo scopo le feste, non so, gli alberi della cuccagna o le corse nei sacchi, le processioni religiose o l'immolazione dei capri espiatori sugli altari della giustizia. Tutte situazioni da cui comunque ogni traccia di spontaneità è già sparita. Forse qualche effimero momento in cui una comunità ha potuto decidere in comune assemblearmente ha svolto almeno parzialmente questa funzione. Ma storia alla mano, la nostra appartenenza ad una società è talmente frutto di coercizione che qualsiasi pratica che ne verifichi lo stato di salute o di malattia è pleonastica. Tutti sappiamo di essere malati e nessuno è disposto ad addossarsi l'handicap di essere il primo garrulo che cerca di salvare il suo mondo.